I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. C'è un dubbio che toglie il sonno a milioni di italiani, ma l'anno prossimo la nostra economia crescerà dell'1% come previsto dal governo, dello 0,8% come previsto dall'OCSE o dello 0,9% come previsto ieri dal Fondo Monetario Internazionale? Per favore, siamo seri. È chiaro che il dibattito che si è innescato, al di là della sua valenza politica, non è un dibattito sui decimali. Nessuno di noi, né nella sua vita privata né in quella professionale, potrà mai sapere o notare una differenza se si è cresciuti dell'1% o dello 0,8%. Ed ha anche ragione chi sostiene che negli anni passati, con altri governi, da Berlusconi in poi, non vi era tutta questa attenzione, per alcuni accanimento, proprio sui decimali, nonostante in quei casi la differenza fra quanto stimato dal governo e quanto effettivamente realizzato dall'economia del paese sia stata ben più marcata dello 0,1-0,2 di decimale. Ma infatti il punto è un altro e occorre ribadirlo. Non è lo 0,8 o l'1% che cambieranno i destini di questo paese, ma potrebbero cambiare quelli che sono i rapporti con Bruxelles. Abbiamo ottenuto infatti per il secondo anno una maggiore flessibilità sulla manovra per il 2017, ma se Bruxelles dovesse ritenere che stiamo esagerando in ottimismo o, peggio ancora, dovesse verificare che tutte le nostre prospettive si sono rivelate alla realtà dei fatti sbagliate, sarebbe difficile, per non dire impossibile, ottenere ancora una credibilità e un'apertura di credito l'anno prossimo nei confronti dell'Europa. Insomma, per un decimale o per un punto, Martin non perse la cappa, ma rischia di perdere la credibilità con l'Europa. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Ora anche l'Italia ha il suo Matusalemme Bond, il titolo di Stato con scadenza 50 anni, come hanno già Spagna, Belgio e Francia. Solo l'Irlanda fino adesso ha osato spingersi fino a un titolo di Stato con scadenza 100 anni e fino adesso rimane un record assoluto. Il tasso di interesse annuo per chi ha sottoscritto il titolo a 50 anni è del 2,85% ripartito in due cedole semestrali. La domanda è stata 4 volte l'offerta e al Tesoro italiano sono arrivati ordini per 18 miliardi di euro rispetto ai 5 miliardi piazzati con il primo lotto. Per l'80% è stato comprato da investitori stranieri e si tratta per lo più di banche, fondi pensione e assicurazioni che cercano rendimenti appetibili in questi tempi di tassi negativi. E questo del 2,85% appunto in questo periodo è un rendimento davvero appetibile. Per i risparmiatori comuni invece il titolo verrà negoziato sul mercato secondario nei prossimi giorni. Sarà trattabile con un lotto minimo di 1000 euro. Il prezzo, che come noto ha una relazione inversa rispetto al rendimento, finora in un solo giorno di mercato è sceso da 99,1 all'emissione a 97,6, mentre il rendimento invece è salito dal 2,85 all'emissione al 2,9%. In sostanza il mercato, al suo primo giorno di debutto, ha reagito in modo speculativo rispetto alle voci poi smentite di un rientro del piano di acquisti di titoli pubblici da parte della BCE, il cosiddetto quantitative easing. Ma è troppo presto per fare valutazioni di lungo termine, forse bisogna aspettare che il prezzo si stabilizzi. Tanto se l'orizzonte sono i 50 anni, il tempo per riflettere obiettivamente non manca. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.